Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto mondo. People are tired of hearing Fauci and all these idiots, these people that have gotten it wrong. Fauci's a nice guy. He's been here for 500 years. He called every one of them wrong. Allora, era la voce di Donald Trump, Giulia Crivelli. Sì, una voce rubata, nel senso che ogni mattina in questi ultimi giorni di campagna elettorale fa questo briefing ai suoi al telefono, però ci sono anche dei giornalisti collegati e questa volta un giornalista ha registrato e ha fatto uscire questo audio. Tra l'altro, se lo volete riascoltare, poi c'è il podcast, volendo sentite che c'è una persona che fa così. Quando Trump dice le persone sono stanche di Fauci e di questi idioti. Fauci è con noi da 500 anni. Questo tono, io non lo so, sì, possiamo, per carità... spieghiamo, Fauci è l'immunologo della, Anthony Fauci, ufficiale anche della Casa Bianca. Sì, è stato, ha servito per 6 presidenti, sì. È assolutamente apolitico, è un uomo che è nato nel 1940 e ha ricevuto tutti i premi possibili e immaginabili, tra i quali nel 2008 da George Bush la medaglia presidenziale della libertà, che è la più alta onorificenza civile concessa negli Stati Uniti. Non ha mai risposto agli attacchi di Trump, ha sempre cercato di fare il civil servant, cioè di mantenere la calma di fronte anche alle cose meno scientifiche che uscivano dalla bocca di Trump, come la famosa iniezione di candeggina e i miracoli dell'idrossiclorochina, che guarda caso poi non ha preso quando ha avuto bisogno di essere curato. E questa parola idiots, proprio dare dell'idiota a Fauci, alle persone che come lui stanno cercando di salvare il salvabile, perché ieri negli Stati Uniti c'è stato l'ennesimo picco di contagi praticamente in tutti gli stati, e queste parole sono su tutte le prime pagine dei giornali. E mi ha abbastanza sorpreso che per la prima volta nella sua storia USA Today, che non è forse molto conosciuto qui, ma è di fatto l'unico quotidiano americano a diffusione nazionale, per la prima volta nella sua storia fa un endorsement e lo fa per Biden. Perché questi toni, ricordiamo, il presidente Trump non è soltanto il capo di Stato, è anche il capo del governo. Allora pensate, certo, il nostro presidente Mattarella è tutt'altro personaggio, però pensate, perché Mattarella è il nostro capo di Stato, se desse dell'idiota, per esempio, a Pregliasco o a Crisanti. Cioè non si riesce nemmeno a commentare, perché non è... È vero che c'è, scusa se ti interrompo Giulia, che c'è sempre una dialettica, no? Magari non detta, a volte anche molto detta, tra i politici che cercano di tranquillizzare un po' anche l'opinione, no, pubblica, e il virologo che invece dà un messaggio scientifico anche a volte terrorizzante. Però questa è una dialettica, diciamo, a cui siamo anche abituati. Qua forse... Siamo oltre, e se volete sentiamo anche il secondo audio, e qui Trump si prende gioco in generale degli scienziati, che sono poi quelli che gli hanno salvato la vita, perché 24 ore prima, e molti giornali lo sottolineano, aveva spiegato in uno di questi comizi che lui era stato curato dai migliori medici della nazione, che aveva 12 medici intorno a sé, e lo sappiamo. Quelli non erano degli idioti, però no. Probabilmente, ma neanche Fauci lo è naturalmente, quindi insomma questo è un teatrino che ci ha accompagnato e ci accompagnerà fino al voto sicuramente, perché comunque Trump ha deciso di sposare questa linea di tranquillizzare a tutti i costi tutti, anche smentendo formalmente i virologi, che poi invece è costretto a inseguire nelle cose che fa, perché non si può fare altrimenti. E lo stesso Regeneron, no? Il farmaco che ha usato. Ma sentiamo questo audio, però volevo solo, a proposito di questa dialettica che ormai diciamo fuori controllo, viene riportato sui giornali oggi il commento di un senatore repubblicano che non si ricandida, lo ha già detto, quindi è uscente, che dice rendiamoci conto che in quest'era, perché questa frase idiots ha fatto il giro dei social in tempo reale praticamente, in quest'era dei social network e della comunicazione esasperata, queste parole vengono ascoltate anche dai nostri bambini. Gli stiamo insegnando che l'avversario si attacca, l'avversario nel senso qualcuno che la pensa diversamente da te, perché siamo in una democrazia, quindi l'avversario a parole si attacca con questi toni. Non è un bel messaggio, ma sentiamo ancora Trump. He'll listen to the scientists. If I listened totally to the scientists, we would right now have a country that would be in a massive depression. Instead of, we're like a rocket ship. Take a look at the numbers. Ecco, io ho bisogno della traduzione, però. Dice, con appunto facendo il tono del bambino che imita, oh, dobbiamo ascoltare gli scienziati. E poi dice, beh, io se li avessi ascoltati avremmo un paese in deep depression, invece siamo come una rocket ship, siamo un missile, allora siamo un razzo. Allora, sappiamo che il crollo previsto del PIL degli Stati Uniti è tra i più alti del mondo occidentale, e quindi è proprio negare la realtà a questo punto. E questi temi cominciano, secondo la maggior parte dei sondaggi, a essere quelli più importanti. Cioè, questo presentare, tra l'altro, a questi comizi, dove sì, c'è tanta gente, ma parliamo di migliaia di persone contro i 180 milioni che sono chiamati a votare, 20 dei quali tra l'altro lo hanno già fatto. E quindi si comincia a esserci proprio questo gap tra la realtà che Trump cerca di rappresentare ai suoi comizi, contando sul fatto che tutto viene amplificato dai social, e la realtà vera. Qualche titolo sui giornali europei invece, Giulia? Sì, i giornali britannici naturalmente sono alle prese con queste due coprifuoco, da una parte Manchester, dall'altra l'intero Galles. E poi c'è un tema che secondo me è importantissimo, ed è quello degli effetti collaterali del Covid. Ieri il principe William è intervenuto e ha parlato di una catastrofe per tutti quelli che hanno problemi di salute mentale. Metro oggi dà le percentuali di aumento di decessi per altre patologie, vittime per diabete quello grave più 86%, vittime che non hanno più ricevuto cure, pazienti affetti da Parkinson più 79%, vittime di cancro, tra l'altro questo è il mese della prevenzione del cancro al seno, più 47% le vittime. Quindi questo tema di riuscire a non portare all'emergenza, al collasso i sistemi sanitari è attuale ovunque. Ancora un minuto e mezzo prima di chiudere, sì, scarso. Se vuoi, naturalmente tutti i giornali di lingua spagnola, quindi a partire da El País, hanno la vittoria del partito di Evo Morales in Bolivia, quindi un cambiamento di colore di governo. È un fatto notevole questo, sì. No? Ricordiamo il nome del nuovo presidente. Qua, allora, Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, che è il partito di Evo Morales. Anche se forse ha detto che farà un governo di unità nazionale, non si è sì, capito. Anche perché il Correo, che è un quotidiano della Bolivia, parla di final de infarto, quindi è stata una corsa proprio, insomma, fino all'ultimo. Quindi a maggior ragione, giustamente, si fa una grossa coalizione alla boliviana. Ultimissima cosa, sì, che voglio segnalare, sì, perché ieri di El País ho detto che dava notizia che la Spagna non prenderà il MES. In realtà non è il MES, era messo in modo un po' confuso il titolo, ma comunque colpa mia che non ho approfondito. In realtà Sanchez vuole rinunciare a tutta la parte del recovery fund che non è a fondo perduto, quindi quelli che invece prevedono i prestiti, esatto. Quindi per vuole questo fondo parlavamo di 70 miliardi, che sono una cifra superiore comunque alla parte di MES alla quale avrebbe diritto la Spagna. È il sogno di tutti, avere dei soldi senza doverli restituire. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo naturalmente domani per la puntata di oggi con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in assistenza in redazione. Noi ci risentiamo domani, buona giornata, ciao da Alessio Maurizi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.